Creature, capitolo quinto di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitare il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Roma, novembre 2007. Mirice, di Giovanni Pascoli. Capitolo quinto. Creature. Primo. Fides. Quando brillava il vespero vermiglio e il cipresso pareva oro, oro fino, la madre disse al piccoletto figlio: così fatto è lassù tutto un giardino. Il bimbo dorme e sogna i rami d'oro, gli alberi d'oro, le foreste d'oro. Mentre il cipresso nella notte nera scagliasi al vento, piange alla bufera. Secondo. Ceppo. È mezzanotte, nevica, alla pieve suonano a doppio, suonano l'entrata. Va la Madonna bianca tra la neve, spinge una porta, l'apre, era accostata. Entra nella capanna, la cucina è piena d'un sentor di medicina. Un bricco al fuoco sode borbottare, piccolo il ceppo brucia al focolare. Un gran silenzio. Sono a messa? Bene. Gesù trema, Maria si accosta al fuoco, ma ecco un suono, un rantolo che viene di su, sempre più fievole e più roco. Il bricco versa e sfrigge, la campana col vento or s'avvicina or s'allontana. La Madonna con una mano al cuore geme, una mamma, figlio mio, che muore, e piano piano col suo bimbo fiso nel ceppo torna all'uscio, apre, s'avvia. Il ceppo sbracia e crepita improvviso, il bricco versa e sfrigola via via, quel rantolo è finito. Oh Maria stanca, bianca tu passi tra la neve bianca, suona d'intorno il doppio dell'entrata, voce velata, malata, sognata. Terzo. Morto. Manina chiusa che nel sonno grande stringi qualcosa, dimmi cosa c'hai. Cosa c'ha? Cosa c'ha? Vane domande, quello che stringe niuno saprà mai. Te l'ha portato l'angelo, il suo dono. Nel sonno sempre lo stringevi, un dono. La notte c'era, non c'era il mattino. Questo ti resterà, dormi, bambino. Quarto. Orfano. Lenta la neve, fiocca, fiocca, fiocca. Senti. Una zana dondola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca. Canta una vecchia, il mento sulla mano. La vecchia canta, intorno al tuo lettino c'è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta. La neve fiocca lenta, lenta, lenta. Quinto. Abbandonato. Nella soffitta è solo, è nudo. Muore. Stille su stille gemono dal tetto. Gli dice il santo: ancora un po', fa cuore. Mormora: il pane è tanto che l'aspetto. L'angelo dice: or viene il Salvatore. Sospira: un panno per il mio freddo letto. Maria dice: è finito il tuo dolore. Oh, mamma io voglio, e dormire al suo petto. Lagrima a goccia la bufera nella soffitta. Il santo veglia assiso. L'angelo guarda, smorto come cera. La Vergine Maria piange un sorriso. Tace il bambino, aspetta sino a sera. All'uscio guarda, coi grandi occhi fiso. La notte cade, l'ombra si fa nera. Egli va desolato in paradiso. Fine del capitolo quinto.